Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione settimanale per vivere, pensare e agire cruelty free. L'unica trasmissione che vuole bene agli animali, all'ambiente e addirittura ai vicini di casa. Prodotta da una redazione interamente composta da ex onnivori pentiti che hanno fatto un falò con le loro cinture, anfibi e polacchine in pelle. Dove la ritrovate una redazione così? La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Ilaria Beretta, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Partiamo subito con una notizia pittoresca e ci teniamo a dirlo non sponsorizzata, nonostante le apparenze. Circa 50 equipaggi composti da cane e guidatore si sono avventurati domenica 8 maggio alla scoperta dell'Oltrepò Pavese in occasione della carica dei 501, il raduno mondiale che ha portato per la prima volta gli amici a quattro zampe a bordo di Vespe e Fiat 500 per sensibilizzare i proprietari sulla responsabilità del trasporto in sicurezza degli animali da compagnia. Gli equipaggi sono partiti da Casteggio Pavia, divisi in tre gruppi per un tour a tappe dove, oltre a scoprire le bellezze del territorio, si sono cimentati in attività particolarmente gradite ai cani, sotto la guida di istruttori cinofili. Più avanti, durante la puntata, torneremo a parlare di turismo e animali. Il circense Radoiz Mirkovic è stato condannato dal Tribunale di Monza al pagamento di 10.000 euro di multa, confisca degli animali e sospensione dell'attività per 4 mesi, per maltrattamento degli animali di sua proprietà, animali impiegati negli spettacoli circensi. In particolare, un avvoltoio testa gialla, detenuto dal circense in custodia giudiziaria, morì nel 2012 per denutrizione cronica. Questa sentenza rafforza le opinioni di chi ritiene che la vita nel circo non può garantire agli animali i loro bisogni etologici fondamentali e conferma l'importanza del sequestro degli animali, che non devono mai essere lasciati in custodia giudiziaria a reo, bensì immediatamente trasferiti presso centri di recupero attrezzati. Purtroppo però la realtà è che i centri di recupero, invece di aprire, stanno chiudendo. È questo il caso di un piccolo centro di recupero per animali selvatici di Padova, gestito dalla LIPU, che veniva tenuto in piedi da una convenzione, pensate, di appena 7.000 euro l'anno da provincia e regione. Tale convenzione non è stata rinnovata, mandando in crisi il già fragile equilibrio economico del centro. Ne parliamo con Carlotta Fassina, volontaria del Centro Recupero Rapaci di Padova e consigliera nazionale della LIPU. Noi a livello padovano facciamo questa attività appunto da tanti anni e nell'ultimo decennio abbiamo ricoverato veramente tantissimi animali, circa 4.078 dal 2006 al 2015. E tra questi 4.000 animali abbiamo sicuramente uccelli, tra cui per esempio 206 gheppi, 41 poiane, ma anche moltissimi passeriformi, quindi non solo rapaci, ma per esempio 466 rondoni e addirittura svariati mammiferi, 646 mammiferi. Siccome il nostro non è un centro molto grande, noi non abbiamo mai ricoverato, se non per tempi brevissimi, grossi mammiferi come per esempio caprioli, ma sicuramente volpi, tassi, ricci e pipistrelli. Animali estremamente diversi, con necessità molto diverse, sia per quanto riguarda l'alimentazione che per le cure, che anche ovviamente per la detenzione. Ci vogliono strutture anche di un certo tipo. Noi abbiamo la convenzione che viene fatta ogni anno, rilasciata dalla provincia, che ufficialmente è scaduta con la fine dell'anno 2015. Dopo di allora con la provincia abbiamo avuto un po' delle scartoffie, chiamiamole così, per prorogare questa convenzione, però al momento noi non sappiamo se, come ogni anno, viene garantita la quota che va a copertura delle spese veterinarie e di una piccola parte delle altre spese che sosteniamo per l'alimentazione, la cura degli animali selvatici. Questa situazione viene in un momento dell'anno, che è questo, in cui veramente le chiamate delle persone sono tantissime, anche perché ovviamente questo è il mese della riproduzione della fauna selvatica, arrivano un sacco di piccoli, non solo di uccelli ma anche di mammiferi, e questo ovviamente sta creando una situazione estremamente difficile per noi, perché non sappiamo come poter continuare. Non vogliamo ovviamente mancare il nostro compito, che a titolo volontario portiamo avanti da un sacco di anni, venendo meno anche le esigenze delle persone, però nello stesso tempo siamo senza alcuna garanzia anche dal punto di vista normativo. Noi purtroppo sulla recupero della fauna selvatica abbiamo in Italia un grosso vuoto normativo. Non ce la sentiamo in questo momento di chiudere le porte così agli animali che stanno arrivando. Faccio un esempio: ieri abbiamo ricoverato due rapaci, un gufo che aveva urtato un'automobile e quindi era stato raccolto con una frattura esposta, e un gheppio, che è un falchetto che è stato impallinato ieri a stagione venatoria conclusa, specie protetta, e da radiografia si vede che è pieno di pallini d'arma da fuoco. La rivoluzione che sta avvenendo a livello delle province riguarda anche la vigilanza venatoria. La polizia provinciale è un organo importantissimo, anche il corpo forestale sta subendo purtroppo lo stesso destino, per il controllo degli illeciti di bracconaggio. Gli animali rischiano di non essere soccorsi. Noi abbiamo le voliere di riabilitazione per i rapaci, per la fauna selvatica, che sono sul terreno della provincia, entro il parco regionale dei Colli Euganei, nella zona di Cinque Euganeo, entro il parco regionale dei Colli Euganei. Noi abbiamo attivato una petizione online che è visibile nella nostra pagina Facebook della Lipu di Padova, e quindi sarebbe bellissimo se tantissime persone potessero non solo condividerla come sta avvenendo adesso, ma proprio firmarla, perché firmando questa petizione in un certo senso noi lanciamo un messaggio non solo per il piccolo centro di Padova, ma anche per tutti gli altri centri che ci sono sparsi in Italia, nella speranza che finalmente si decida di fare una legge nazionale che sia chiara sulle competenze e sui finanziamenti di questi centri di recupero. Tenga presente che per esempio Roma, che ha un centro di recupero grande nella capitale, raccoglie ogni anno 15.000 animali, 15.000 animali diversi che mangiano tutti i giorni e che devono essere curati. Un gruppo di animalisti è stato denunciato per calunnia e interruzione di pubblico servizio. È accaduto ai volontari dell'associazione META, ovvero Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente, della sezione della Lombardia, che avevano fatto un sopralluogo dentro un allevamento di conigli situato a Gradella di Pandino, dopo aver ricevuto una segnalazione di maltrattamento accompagnata da fotografie che mostravano gabbie troppo piccole e mancanza di acqua. I due volontari hanno deciso di recarsi, muniti di un registratore, dal proprietario dell'allevamento, fingendosi acquirenti e indagando sulle modalità di acquisto dei conigli. Il titolare dell'allevamento li avrebbe accompagnati all'interno della struttura, rivelando che c'erano 61 conigli detenuti e che al prezzo di 8 euro al chilo, una volta scelto il coniglio, lui avrebbe potuto macellarlo subito. Nei giorni seguenti, la stampa locale riporta che i volontari sono stati denunciati e che la ASL non ha riscontrato i reati di maltrattamento che i due avevano verificato di persona. Meta Lombardia, comunque, avendo prove fotografiche e registrazione audio dei reati, continuerà la causa legale per salvare i conigli. A questo episodio è seguita una polemica, in quanto un altro giornale ha sostenuto che i due volontari avrebbero fatto macellare un coniglio davanti ai loro occhi per riprendere la scena e denunciarla, con grande scandalo del mondo animalista. Come si dice in questi casi, unum castigabis, centum emendabis. Seppur animali da carne, quindi destinati ad essere uccisi, sono comunque in grado di provare dolore e paura esattamente come noi, quindi non è da sottovalutare il loro stato psicofisico. Per sapere cosa accade dentro un allevamento, tuttavia, non è necessario recarcisi di persona. Grazie alle nuove tecnologie, Animal Equality offre a chiunque la possibilità di fare una visita virtuale in 3D molto realistica e impressionante. Ne sa qualcosa la nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino, attualmente sotto shock per le immagini viste. Sembra che Roberta non riesca più a dormire senza l'aiuto di farmaci, ovviamente non testati su animali. Si costituirà parte civile contro Animal Equality? Lo scoprirete ascoltando l'intervista a Matteo Cupi, presidente, cofondatore e portavoce del corrispettivo italiano di Igualdad Animal. Sono in compagnia di Matteo Cupi, direttore di Animal Equality in Italia. Al Comune di Milano avete presentato questa vostra nuova tecnologia che consente di vivere l'esperienza, chiamiamola così, di trovarsi all'interno di un allevamento e successivamente anche di un macello in prima persona. Il progetto in questione si chiama iAnimal. Dopo, diciamo, una lunga serie di investigazioni che abbiamo presentato negli ultimi anni, qui stiamo parlando di oltre 30 investigazioni, abbiamo incominciato a chiederci come riusciamo a far vivere, diciamo, direttamente a quello che prova, le sensazioni che sta vivendo un animale all'interno di una gabbia, di un allevamento intensivo. E abbiamo visto che comunque si stava iniziando a utilizzare questa nuova tecnologia, appunto, dei filmati a 360 gradi e dei visori per la realtà virtuale. Quindi ci siamo detti, perché non incominciare a convertire le nostre investigazioni filmate a 360 gradi combinandola con la realtà virtuale. Da qui, diciamo, che nasce il progetto iAnimal, appunto, per sensibilizzare maggiormente il pubblico. I filmati comprendono oltre 18 mesi di investigazioni che, appunto, abbiamo svolto in Italia, in Germania, in Spagna, nel Regno Unito e in Messico. Il lancio è stato fatto al Sundance Film Festival nello Utah, negli Stati Uniti. Abbiamo presentato Factory Farm, che è un cortometraggio di 12 minuti. Il cortometraggio è stato prodotto con la collaborazione di Condition One, che è una società che, diciamo, tratta il tema della realtà virtuale. Abbiamo, appunto, presentato questo documentario su tutta la filiera dell'industria suinicola messicana, quindi dalla nascita dei maialini di fianco alle gabbie di gestazione fino al macello. Un progetto di questo tipo ha veramente un potenziale per generare un cambiamento, soprattutto riguardo alle abitudini alimentari delle persone. Qualcuno forse potrebbe obiettare, ma si parla di realtà virtuale, quindi è tutto finto? Una volta indossato questo visore veniamo direttamente trasportati all'interno di un allevamento o di un macello. L'esperienza è totalmente immersiva, molto avvolgente, quindi ci sembra veramente di vivere un'altra realtà. Il video è 360 gradi, dovunque ci giriamo lo sguardo siamo all'interno, appunto, dell'altra realtà, no? Non c'è modo di scappare. No, assolutamente no, a meno che ci leviamo il visore. Per quanto riguarda possibili obiezioni, il video è un filmato reale, non è una simulazione e non è nemmeno un video in 3D. È un video girato a 360 gradi che sfrutta la tecnologia di questi ultimi visori per la realtà virtuale che, diciamo, sono stati messi sul mercato da qualche mese. Appunto, è un'innovazione. Quindi, tornando a quello che dicevamo prima, la differenza rispetto ai filmati classici che si vedono comunque di investigazioni è che non si può voltare lo sguardo. Assolutamente no. Rompiamo il paradigma dello spettatore, diciamo, io seduto davanti a un monitor o un televisore, in questo caso sto vivendo letteralmente l'esperienza e quello che si prova è sconvolgente, diciamo. Prima di provare questo visore noi chiediamo sempre alle persone: sai come vive un animale all'interno di un allevamento, sai come viene, tra virgolette, prodotto il tuo cibo, quello che tu mangi ogni giorno, eccetera, e la maggior parte delle persone ovviamente dicono no. Spieghiamo un attimo come funziona il visore, una volta indossato e levato, la maggior parte delle persone rimangono sconvolte e veramente tante persone dicono: smetto di mangiare carne. Presenteremo inizialmente questo progetto nelle maggiori università in Italia. C'è il sito web dedicato che si chiama ianimal.it. Il video è a 360 gradi e si può muovere col proprio cursore, quindi col mouse o il touchpad del portatile si può fare questa esperienza, diciamo, però non è come indossare un visore. Non sai che cosa ti aspetta. Sei dietro le sbarre. Se ti guardi intorno, puoi vedere tantissimi altri come te. Il tuo vicino alla tua sinistra prova a darti conforto e cerca conforto in te. È così da che hai memoria. Sei nato in una gabbia, tra gli escrementi di tua madre. Non per colpa sua, non perché le abbia voluto così. Repubblica di lunedì 16 maggio è uscito l'esito di uno studio commissionato dall'associazione ambientalista World Animal Protection sull'impiego della fauna selvatica a fini turistici. Il risultato è una vera e propria classifica delle efferatezze a cui vengono sottoposti animali selvatici in nome del cosiddetto turismo globale e che vede ogni anno viaggiare 110 milioni di persone con un giro d'affari di miliardi di dollari. 80 grandi compagnie turistiche hanno aderito alla campagna Wildlife Not Entertainers, promossa per fermare il doloroso sfruttamento di oltre 560.000 animali selvatici. Maestosi elefanti schiacciati dal peso di 2, 3, a volte 4 persone comodamente sedute sulle loro schiene, costretti a camminare per ore sotto il sole cocente. Imperiosi e selvaggi tigri ridotti a mansueti gattoni che si lasciano abbracciare e accarezzare come animali domestici. Cuccioli di leone strappati alle loro madri a poche settimane di vita per diventare inconsapevoli protagonisti di inutili selfie ricordo da vacanze esotiche. E poi cobra a cui si staccano con le pinze i denti velenosi per poter essere baciati da chiunque. Scimmie vestite da geishe costrette a ballare e dimenarsi come ballerine di cancan. E orsi giganteschi che pedalano su minuscoli tricicli. Meravigliosi delfini con la pelle ustionata dai raggi del sole trascinati dalle profondità degli oceani in minuscole vasche di cemento piene d'acqua e cloro che gli brucia gli occhi. Tartarughe che si spaccano le zampe sbattendole furiosamente per lo stress di essere tenuti in mano fuori dall'acqua come fenomeni da baraccone da mostrare al pubblico. Serpenti e coccodrilli che si sbranano l'uno con l'altro sul fondo di pozzi dove marciscono in attesa di essere mostrati al pubblico e poi spellati per diventare borse e scarpette. Noi vogliamo un mondo in cui gli animali selvatici possano vivere nella natura a cui appartengono, spiega WWAP, ma l'85% dei turisti non conosce l'impatto negativo che certi viaggi hanno sul benessere animale. La sfida è quindi viaggiare consapevolmente ed è per questo che WWAP sta cercando di coinvolgere TripAdvisor, il più grande motore di ricerca turistico del mondo, sul web. Turismo, ancora animali. Turisti incauti caricano in auto un piccolo di bisonte nel parco di Yellowstone, nello stato del Wyoming, Stati Uniti. Reimmesso poi nel branco, il cucciolo non viene più accettato e i rangers lo sopprimono in quanto incapace di sopravvivere autonomamente. È un'altra triste storia, sia per l'epilogo, che forse poteva essere evitato, ma soprattutto per l'abuso dei turisti che hanno imprintato un selvatico, magari anche in buona fede, ma causando un danno irreparabile. L'accaduto fa riflettere su come certi luoghi, delicati come parchi, necessiterebbero di visite contingentate e guidate, e non di automobilisti liberi senza alcun tipo di controllo e di preparazione. Lo scorso anno, a Yellowstone, 5 visitatori sono stati feriti gravemente dai bisonti perché si erano avvicinati troppo al loro branco. Why does my heart feel so bad? Why does my soul so bad? cosa penserà Francisco the Pope del turismo inconsapevole che sfrutta gli animali selvatici? Direbbe forse che i turisti farebbero meglio restandosene a casa, facendo semmai dei safari presso i loro vicini bisognosi. Molta polemica ha suscitato la recente uscita di Papa Francesco su gatti, cani e vicini di casa. Molta polemica per nulla. Per commentare questa provocazione a cura del più grande opinion leader vivente, abbiamo consultato il nostro filosofo di riferimento, il professor Luigi Lombardi Vallauri. Sentiamo. Sostiene Vallauri. Mi sembra, come spesso succede con questo Papa, un caso di tanto clamore per nulla. Tutti noi diamo enormemente più importanza ai nostri bambini che ai bambini altrui, e quindi è normale che molti diano più importanza al cane di famiglia che agli esseri umani non di famiglia, agli esseri umani diciamo altrui. Siamo tutti autoreferenziali, egocentrici. Ma in generale il Papa sostiene, per esempio nella cosiddetta eco-enciclica, che l'animalismo può essere, dice, una ossessione che porta a preferire in generale gli animali agli umani. E questo sarebbe un'ossessione perché squilibra la misericordia, o meglio il piano di Dio in materia di misericordia. E su questo punto dirò tre cose. La prima, bisogna avere compassione umana, ma non indulgenza intellettuale, per questo Papa che si affanna assurdamente ad esumere misericordia da una tradizione religiosa, Bibbia, Vangelo, Magistero Pontificio, che complessivamente è la meno misericordiosa, la più violenta, direi la più infernale dell'umanità. Basta pensare al genocidio dei popoli vinti in guerra, alla pena di morte per tutti i reati, al sacrificio massiccio degli animali nell'Antico Testamento, alla dannazione infernale dell'umanità peccatrice nel fuoco eterno proclamata da Gesù nei Vangeli, al destino dantesco di morte eterna assegnato dai papi a tutti i non cattolici, ai cattolici non praticanti, ai peccatori sessuali, compresi il bacio non coniugale senza escalation e i rapporti coniugali volutamente non riproduttivi. Se si prende sul serio la misericordia, bisogna togliere la qualifica di parola di Dio a una percentuale altissima di Bibbia, Vangelo e Magistero Pontificio. Lo esige l'onestà intellettuale. Dire che la parola di Dio è misericordia è un falso storico senza precedenti. Seconda cosa, è anche vero che la compassione verso gli animali può ispirare un po' di sana misantropia per il genere umano. Anche i più miseri tra gli umani, perfino quelli che sbarcano sui barconi, schiavizzano e massacrano gli animali. Ma certo ispirano maggiore misantropia o compassione morale gli umani ricchi che traggono enormi profitti dagli allevamenti intensivi, dalla macellazione industriale, dalla vivisezione a scopo farmaceutico. E gli umani ricchi che ne approfittano per mangiare, vestirsi e divertirsi. Terza cosa. Il Papa critica gli innamorati dei propri pet che trascurano i bisogni degli esseri umani. Anch'io critico gli innamorati dei pet, ma da una prospettiva diversa e complementare. Primo, intanto non sono sicuro che il trattamento degli animali da affezione corrisponda alle loro vere esigenze etologiche. Secondo, l'invasamento per i propri animali da affezione si unisce spesso alla completa indifferenza per gli animali non da affezione. C'è un incredibile razzismo antropocentrico. Quindi critico gli animalisti da pet non solo in nome dei diritti dell'uomo, ma anche in nome dei diritti della mucca e del manzo, della gallina e del pollo, della scrofa e del maiale, del pesce che agonizza nella rete o all'amo del pescatore. Mi dispiace che costoro non siano militanti nella filantropia e o nell'animalismo, ma potrebbero almeno astenersi dal far soffrire. Si richiede solo di non fare, si richiede solo un astenersi, per esempio un non mangiare. Il Papa tace del tutto anche nell'enciclica sul vegetarianismo, non ha sprecato una parola sui capponi di Natale, sui maiali di Capodanno, sugli agnelli di Pasqua e sui pesci dei venerdì. Secondo me gli resta ancora molto cammino da fare nell'empatia e nella razionalità. Concludo in un modo forse atipico. Dal profondo della pace della meditazione in foresta stamattina non posso che compassionare il Papa che arranca verso il buon senso, portandosi sulle spalle il peso, il macigno della tradizione di violenza sugli uomini e sugli animali da cui proviene e che non riesce a rinnegare. Chiudiamo la puntata in allegria, in Toscana si direbbe a tarallucci e vino, ma grazie alla nostra consueta rubrica di cucina, il pasto gentile, possiamo forse ambire a qualcosa di meglio. Il nostro tosco vegan chef, Gabriele Palloni, ci propone una ricetta di stagione molto... molto maliziosa. Sentiamo. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Si dice che se si trova un baccello di fava contenente 7 semi si avrà un periodo di grande fortuna. La ricetta di oggi riguarda proprio questo legume. Non si tratta del marò, il celebre pesto ligure di fave crude e menta. In questa ricetta i baccelli, come si chiamano a Firenze, li faremo stufati per poi realizzarne una crema dal sapore deciso, adatta a condire un bel piatto di pasta o di cereali. Ecco il pesto di baccelli stufati. Gli ingredienti per 4 persone sono 200 g di fave fresche sbucciate, un aglio fresco o uno spicchio di aglio, una costola di sedano, un mazzetto di prezzemolo, un bicchiere di vino bianco, 2 pomodori ben maturi, basilico fresco, olio extravergine di oliva, pepe nero, sale. In una casseruola mettete le fave, l'aglio fresco, se non lo trovate potete utilizzare uno spicchio di aglio dal quale avrete prima tolto l'anima, del sedano tagliato a pezzetti non troppo piccoli, il prezzemolo, sale, pepe, olio extravergine di oliva e coprite di acqua. Portate a cottura a fuoco piuttosto lento. Quando l'acqua si sarà ritirata aggiungete il vino bianco e lasciate evaporare. Aggiungete pomodori tagliati a pezzetti e altra acqua o brodo vegetale e fate finire di cuocere. Togliete dal fuoco e conservate 2 cucchiai di fave stufate, mentre frullerete tutto il resto per ottenerne una crema. Aggiustate di sale e pepe e al momento di condire la pasta, molto buono l'accostamento con una pasta integrale, unite anche le fave stufate intere che avete conservato. Servite con un giro di olio extravergine di oliva crudo e una foglia di basilico fresca spezzata a mano. Windmill, windmill for the land, the forever hand in hand. Take it all out on your stride, it is taking falling down. Non ci resta che chiudere ringraziando le voci che hanno permesso questa trasmissione di andare in onda e che sono quelle di Carlotta Fassina, Roberta Marino, Matteo Cupi, Papa Francesco e i vicini di casa, Luigi Lombardi Vallauri, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Giuseppe Coco e la vicina di tutti, Camilla Lattanzi. L'appuntamento con Restiamo Animali è tra 7 giorni esatti. Stesse onde, stessa ora. Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.